notifichiamo a lui e al padrone di casa, almeno so chi devo denunciare per danneggiamento. Devo parlare così che ti registrano. Natali, sei un uomo umano, non c'è bisogno di dirtelo. Non parlare così che ti possono registrare se ti sentono. Non mi sente nessuno. E poi se mi registrano alla faccia in culo mi ci mettono. Lì che c'è scatto malamente, scatto. E succedono cose turche. Sono anche troppo calmo. Sono. Se Marino, in quei 5 minuti posso fare danno un bel. E poi te lo dici tu, non lui, per cui statene tranquillo, bravo e tranquillo. Tu, se c'hai problemi, te ne stai tranquillo, i problemi, se c'hanno problemi, se li devono risolvere loro, se tu sei tutto a po', importante, tu sei tutto in regola, tutti i cavi, tutte le cose fatte a regola date, non roba di spezzoni, di cose che potrebbero dare dei disturbi, devi avere tutto a regola date, capo buono, connettori buoni, apparati omologati, non ti può cercare nessuno, perché tu sei dentro i valori di legge, e rispettando le leggi c'è il diritto di installazione di parabola, è diritto inalienabile da nessuno, a meno che non ci sia scritto nel condominio, nel codice del condominio, prima di entrare in un appartamento, in un palazzo, dicono assolutamente vietato e tu hai firmato per non farti mettere l'antenna, però ci deve essere scritto, se no il codice civile c'è il diritto di montare antenne di qualunque genere, vabbè, naturalmente entro certe dimensioni, perché se superi le dimensioni a quel punto ci sono altre cose da sistemare con altre autorizzazioni. Però tu puoi comunicare su chi ti piace, se lui ha problemi di disturbo di TV e tu sei tutto a posto, i problemi sono suoi, non tuoi, deve sistemarsi gli amplificatori se ci sono, i cavi se sono in perdita, le antenne se sono in perdita, eccetera eccetera, e vedi che tu disturbi non ne puoi arrecare a nessuno. L'antenna mia non disturba le TV, perché io sono sul tetto di quello che disturbo, con l'antenna mia TV e non la disturbo. Quindi io sono in regola. Loro però non si devono permettere di smontarmi l'antenna, perché se no li denuncio per danneggiamenti. Io ho il foglio qua che faccio vedere ai carabinieri domani, del diritto di antenna, di piazzarlo anche in proprietà altrui, c'è scritto. Sì, no, da quel punto di vista sei tutto d'accordo, però conservati bene le tasse di pagamento, l'autorizzazione di installazione di un impianto radioelettrico, la prima, diciamo, quella che... Tutte le documentazioni, tutto a regola, in modo che venga, guardi, questi sono i documenti, da parte mia io sono tutto a posto. Questo signore si è permesso di toccare le cose di mia proprietà, eccetera, però sempre tranquillo, tu non devi dire neanche, ma ci vuole sempre un pochettino di intelligenza facendo queste cose. Fai venire le forze dell'ordine, attenzione, questo signore sta utilizzando dei mezzi per staccarmi l'antenna, eccetera eccetera, attenzione facendo le fotografie di una persona, perché c'è anche il discorso della privacy, devi stare molto attento e non devi far vedere le facce, parole povere, fotografi l'antenna come nelle condizioni in cui si trova, con tutti i particolari, il palo eccetera eccetera, poi passa il cavo, perché uno ti può fare anche un dispetto, ti taglia il cavo, per cui c'è delle prove, per questo potrebbe dire no, l'antenna era già rotta da prima, tu fai in modo che riesci a far verificare che l'antenna in tale data era piazzata ed era efficiente. Se di domani trovi il cavo tagliato, a quel punto dici no, esetta un poco, questo è successo domani o dopodomani. E attento alle fotografie, se fotografi le persone, perché ti può dare la zappa ai piedi, è molto delicato il discorso della privacy. E io domani, come scendo alle 8, fotografo l'antenna, molto ci vuole. Se l'antenna ha guasto, so cazzi degli. Cioè, in caserma posso una denuncia che mi si ringhi nei ribatti. Ok, dai, ok, stiamo monopolizzando, state tranquillo, Natalia, sei una persona grande, come ha detto Giulio, è vaccinata, non sono questi i problemi, anzi, se avete problemi se li devono creare gli altri, tu devi essere più forte e far arrabbiare agli altri, tu devi stare sempre sereno, non ti una futtinuta, state tranquillo, non c'è problema. Ok, avanti Giulio e poi Riccardino e poi Fabio. Continuate. Io al posto suo sarei un po' più tranquillo e lascerei che si muovano loro. se si muovono loro va bene, saranno loro responsabili di tutto. Poi vedi tu Natalino, dove dovete andare, io non mi permetto nemmeno di darti un consiglio, perché sei abbastanza grande, per cui, però io sinceramente parlando, io certe affermazioni non le farei, perché ti ho detto che potrebbero sentirti e ci vuole poco a fare una denuncia a riguardo delle minacce che stai facendo, perciò abbai da te, pago te di biasi. Ma se tu, se io vengo a casa tua e te ne stacco l'antenna dal palo, tu non mi dici niente a me. Sì, ma hai pienamente ragione, non ti sto dicendo quello io. Però ricordati una cosa, che dalla parte della ragione si passa in maniera molto, ma molto facile e veloce alla parte del torto. Se tu fai certe minacce, quelli ti possono denunciare per minacce, non è il discorso antenna, è un discorso. Ma le minacce è un'altra cosa, guarda, che sono più importanti sicuramente, questo te lo posso assicurare. No, ma io sto pensando che è il fotografo che sta facendo tutto, capito? È lui che sta rompendo le scatole. Se io lo vedo salire sul tetto, gli dico, non toccare l'antenna, stanno arrivando i carabinieri, se tocchi l'antenna, so fare i due. Tu Natalino non gli devi dire niente, cacchio, devi farlo agire, tu non devi minacciare a nessuno, quando lo vedi che lui sta toccando, a quel punto chiami la pattuglia e dici attenzione, c'è un signore sopra il tetto che mi sta manipolando, togliendo, disturbando, qualunque cosa, vengono i carabinieri e prenderanno i provvedimenti. Tu non devi minacciare a nessuno, perché poi minacciando, magari quello ti risponde male, tu si giri il gabbo, magari gli puoi dire qualcosa di brutto e dalla ragione passi al torto e diventa penale, mentre in quel caso lì è una cosa amministrativa, una sanzione, un monito condanna a un risarcimento, il giudice. In caso di minaccia le cose sono molto molto più gravi, stiamo parlando di cose penali. Io richiamo i carabinieri, non hai capito, io non lo minaccio né niente. Io li richiamo perché sennò stanno arrivando i carabinieri intanto, li dico. Se tocchi l'antenna ti denuncio per danneggiamenti. Ma tu non gliene devi neanche dire, dai, chiudiamo il discorso, sennò stiamo due ore fa vedendo. Ok, e Fabio, ci sei ancora tu? Cos'è Fabio? Sto uscendo. Per un pezzo non sono uscito, adesso sì. Va, batteria scarica, mamma mia, quanto succhia questo, incredibile. È un po' gracchiolino, sì. Ok, Riccardi, che ci dici tu? Mi sto ascoltando, però mettiamo pace. Dai, che tra poco è Natale, bisogna essere tutti più buoni. Io domani vado lì, robe. Allora, in mano il mitra sulla mano destra, sulla sinistra lo strumento. Appena sei vicino, avanti che chiama Riccardino. Allora, sai cosa fai? Natale, ti metti sopra il tetto, appena lo vedi avvicinarsi, prendi un vasetto di escoso, di fiori, quello che c'è, però entra in raccolta, li chiudi a capo, e finita di niente, te ne torni a casa. Ed è caduto un vasetto. E lui hai guadagnato un po' di gaetta. Tu se vedi che qualcuno sale sul tetto, la prima cosa da fare è gli scatti una fotografia col telefonino e poi chiami la questura. Ma la serve tutto, solo quello che devi fare, ma devi stare calmo, anzi calmissimo, e soprattutto in quei frangenti lì. Ma quale vasetto è vasetto? Ho detto che io quando devo stare calmo so stare calmo. Speriamo che vengano i carabinieri, se no ci penso io. Perché li chiami e non ci vengono molte volte. E se non vengono allora andiamo male. Vabbè, dai, vi saluto, ciao a tutti. Ciao Giulietta, ci sentiamo. Poi tu, quando c'è 5 minuti di tempo, ti puoi avvicinare in officina che ti devo chiedere dei consigli. A me stai dicendo? Giù, di quella storia che ti avevo accennato, di un restauro che stiamo facendo, volevo avere un consiglio tu. Appena che posso, sì. Appena che posso, io questi giorni devo anche andare fuori Sassari per fare dei controlli, per cui non so nemmeno quando sarò libero. Vabbè, dai, appena che capita, già ci vengo. Solo per una cosa, un intervento, bisogna, questa macchina c'ha, te lo dico al volo, nel cruscotto c'è una specie di fascia in radica che è un po' rovinata, però rimetterli quella vecchia, io avevo visto, mi avevi fatto vedere delle cose tu di restauro che avevi fatto tu, che dice le vendevano a rotoli, così mi dici che tipo di materiale si può utilizzare e che tipo di intervento bisogna fare, solo quello, niente di importante. Io ho capito. E va bene, quando vengo lo vediamo un po' di cosa si tratta e poi ti dirò. D'accordo, d'accordo, Roberto, ci sentiamo, dai, ciao, ciao. E poi ti do, se mi ricordo, ma ti do quei commutatori, tu volevi farti i commutatori, c'ho un sistema per farti una cosa un po' robusta. Sì, va bene, d'accordo. Ci sentiamo, ciao, ciao. Ok, ciao, vai, Riccardo. Sì, vado avanti io, ciao Giulio, le prossime. Avanti, Master, no, Master non c'è, sì, avanti, Fabio. Ciao Giulio, se mi senti alle prossime. Sì che ci sono, Ricca, perché? Non lo sai che io sono sempre in ascolto, visto stamattina? Ma ormai conosco tutte le modulazioni, non c'è problema. Ehi, Roberto, sai che Ricca io mi ha beccato, io ho sentito, così al volo, nell'altro QTH, ho visto il portatile vicino, ho attaccato lo spinotto per alimentarlo, ed ero col portatile in un fosso praticamente. E l'ha riconosciuto al volo, ma te l'immagini? Sta inventando anche lui orecchie di porco. Anche stamattina uno stesso che non riusciva a capire, lui è riuscito a capirlo. Che sei bassissimo di radio, la segnale è forte ma la radio è quasi zero, devi alzare un bel. Sì, segnale 9+15, però spiegami un attimino, perché così forse sono io che non sono molto aggiornato. Io dico, c'avevo una radio e un segnale spettacolare, ieri, anche avanti ieri. Ma che cacchio state sempre toccando? Tenetevi le cose che funzionano. Sei bassissimo di radio, chiara, però sei proprio minima, proprio quasi sotto voce si sente, ok. Vai Riccardo. Sì, ciao Claudio, sì, proprio basso. Ok, vai Fabio. Ma purtroppo io non ho sentito per niente muros, purtroppo è talmente basso che non capisco, non lo sento. E quando è che piazzi tu Fabio? Guarda, in teoria avremmo dovuto fare un'ispezione stasera sul tetto, ma non hanno avuto dei problemi. E che da solo non posso farlo perché devo essere legato, ci deve essere qualcuno, perché mi devo sporgere un pochino in alcuni punti e bisogna sporgere un palo che hanno messo molto male, che non ha tiranti, eccetera. Insomma, dobbiamo essere almeno in due. Perché tutto pronto, c'è l'antenna, il cavo, i tiranti, il regolatore dei tiranti, il tappeto di occhiello, va giù tutto. Ci manca solo, appunto, togliere questo palo e mettere il palo all'antenna. Ma il palo devi utilizzare quello lì e lo sposti da un'altra parte o ne metti uno nuovo direttamente? Ah, potrei utilizzare pure quello che tolgo, il problema è che così come l'hanno messo è un casino, perché sono due pali di pari diametro, non li hanno messi a fianco con le staffette, li hanno messi uno sull'altro e a finire insieme c'è praticamente una di quelle, di quei morsetti per ponteggio. Hai capito la maglia latta? Una grande cagata, a parole tu. Sì, ma è da togliere anche perché così com'è si è già inclinato e rischia che voli giù. Se vola giù sulle nostre macchine ce le paghiamo noi, e sulla strada invece dall'altra parte chi passa passa. E a quel punto metti un palo Mario non altissimo e tubo d'acqua, quelli grossi ci metti e non stiamo a perdere tempo, tanto già sei abbastanza in alto mi ha detto. Sì, ma poi tra l'altro non è che pretende, vabbè, ti puoi immaginare a termina tutti e comunque uscirò con 4 watt, antenna leggera, buon guadagno perché è sottile, capito? Potrei arrivare anche abbastanza, se poi voglio fare un riesco a fare quello che vorrei fare, cioè dargli una spennellata di guagna liquida, magari fa pure qualche anno. Alla cosa, la te? Cappa. Ah, guarda, se la fai bene il lavoro, la imprendi tutta quanta di grasso di vasellina, e come che te la devi montare? Una, come che si chiamava? Una Venom, pesa neanche 2,5 kg, è pesata. Ma c'ha radiali questa? Ah, per radialini storti, tipo Grand Plane, Mostarda. Ma guarda, io ti dico una cosa, per questioni nautiche, perché per cavarne i piedi quando c'è una parte dove c'era il salino e cose del genere, ti prendi le mani e ti riempi le mani di vasellina, di grasso di vasellina, proprio la bagni completamente e gliela butti sopra all'alluminio e diventa eterna, non si frasegge già più, te lo garantisco, ma proprio a buttatura, mi inizi da su verso giù e gliela fai, gliela riempi di cose grasse di vasellina, quella grossa, densa, la metti su e gli fai uno stato protettivo allucinante. Non c'è nessun prodotto che sia più forte della vasellina. Dici, ma col tempo non si slava, col caldo non si scioglie? No, gli lascia una pattina, prima si secca, poi diciamo, se lo fai d'estate naturalmente, cacchio sotto temperatura, è un pochettino scioglie, però gli lascia una pattina, una velatura, leggera leggera, tipo che gli stai dando a pennello questa roba. Tu gliene metti, ma proprio in abbondanza a me, non ti limitare. Solo che lo sapevo e trovavo la vasellina, io me ne è rimasta un pochettino in officina, però ce ne vuole tanta, proprio ti pieni, palmi dalle mani di cose, di vasellina, a passi come che stai facendo, lasciamo perdere che cosa. Questa è la battuta, cancellatela dalla memoria e le passi sopra in giro così, tu da quanta, so poi delle giunzioni, c'è aggiunzioni questa antenna? Certo aggiunzioni, ma infatti ti volevo chiedere, no? Dove potevo recuperarla, perché ai tempi quando le antenne se ne montavano anche tante, io ricordo che andavo da Rubato a prenderla, c'erano proprio dei balzetti, ci mettevo la mano dentro, facevo quei due vicitumi. So che poi la storia delle antenne non le mica seguite, nel senso che ho visto sì, qualcuno l'aveva ancora in giro, una è qua dietro, l'ho vista piegata, perché quella l'avevo messa io, perché si deve essere corrosa la base, non lo so. Però pensavo che con la guagna di qui anche avevo più di meglio, quindi faccio uno strato che rimane aderente, dura 10 anni, capito? Ma la guaina lo sai cos'è? Sono due materiali di composizioni diverse e in certi punti magari aggancia, poi col tempo, col caldo e col freddo hanno composizioni diverse e tende a staccarsi. Non lo vedo più di tanto da lì con la guaina liquida, anche se c'è questa elastic che si chiama della Weber che è ottima, però non lo so, sul metallo non è che la vedo molto consigliabile, dovresti diluirla tanto e basta. Poi sono a base all'acqua queste nuove, per cui non la vedo più di tanto. Io ti consiglio a fare come ho detto io, non so se vuoi, puoi provare e non andare in farmacia, se no magari te vengono dei pensieri brutti. Vai o da Losa o coso, ferramenta a carboni oppure quella ferramenta che c'è in via Marsiglia, non so se l'hai mai vista, è una ferramenta che esiste una vita, ma c'ha cose impensabili, molte volte vado di lì a trovare delle cose e sì sì ce l'abbiamo. In via Marsiglia? Non ce l'ho presente, però ci passo, tanto non è che sia lunga 20 km, o di un verso dell'altro, dov'è? Andando verso il ristorante pizzeria, quello di Caus, oppure all'inizio? Allora tu fai via Catalocchino, via Napoli, giri via Catalocchino e a Marsiglia è la prima a sinistra, prosegui in fondo, poco prima di arrivare via Tempio, sulla destra, sarà a 50 metri dall'incrocio con Corso, c'è un piccolo, due vetrinette, perché c'è l'ingresso e un'altra piccola vetrinetta, piccolina, non ci fai caso, proprio alla fine, però c'è di buono che c'ha un parcheggio suo privato e di fronte c'è lo scaricomici, per cui non c'è neanche mai problemi di parcheggio. È buono, buono, vado lì per non barattolare questa roba, e così mi diverto a... servizio all'antenna. Guarda, io l'ho fatta per l'innesto della Mantova, prima di montarla le ho riempito completamente dentro dove ci sono tutti gli innesti. Io sono sicuro, se vado domani la smonto tranquilla, perché tutti quelli che piazzano le antenne, ti posso dire, l'unico che l'ha fatta come lo dico io è Salvatore Maestrale, e lui l'ha smontata, anzi l'abbiamo smontata insieme, l'ho smontata io, e tutti i pezzi, non si è rovinato niente, perfetta, ne sono usciti tranquilli, perché si usa, tu quando, siccome è in alluminio, quello d'oro di Panatico Rodal anodizzato eccetera, tu quando la sfreghi l'alluminio si incolla, poi si ossida, e questa ossidazione si incolla uno con l'altro, con gli spezzoni dove ci sono gli innesti telescopici, per cui non era gabbi, Marco se ti ammazza dovresti scaldarla. Mi dillo a Claudio, me ne ha portato una in officina, per toglierla alla fine l'abbiamo dovuta scaldare per tirarla fuori, si incolla proprio, si salda una con l'altra battendola tutto in giro piano piano eccetera, è un coso, un rompimento di scatole. Così se fai come ti dico io, la metti bene anche negli innesti, proprio a lampadura buttata in abbondanza, poi gliela prendi, se vuoi metterci, io ci ho messo anche dove c'è la giunzione, l'ho pulito tutto quanto, di lì gli ho messo il vulcanizzante sopra e poi l'ho sigillato con l'altro isolante. Io sono sicuro, se la smonto la mia è integra, perfetta. Poi metti nell'abbondanza, tanto male non li fa. Ecco, fatemi il tuo consiglio. Spero proprio di avere tutto, per mettere l'antenna, invece mi manca la vasellina adesso. Vabbè, tanto sinceramente fretta non ne ho. Anche se mi sta un po' rompendo, sentire gente lontana, non poterci parlare, do fastidio a queste o qualche volta li ascolto, se gente lontana evito di entrare per non disturbare, capito? Giusto questo. E poi comunque una volta che salgo su metto quella, il polo, la mia mitica antenna per scendere un pochino di più per ascoltare sul basso, anche sul doppio. E insomma, 3-4 cosettine. Una volta che arrivo qui la dovevo fare, mi farebbe anche comodo, là, così facciamo girare un po' il ricevitore. Però dopo, non per tornare al discorso di ieri, ma questa farina a 10 euro è sensazionale, cioè qua fa paura. Ricordami che ho perso il filo, di quel coso stiamo parlando, di quella radiolina stiamo parlando. Cappa, è allucinante, incredibile, veramente incredibile. Sì, no, ma poi sono di altissima qualità, hanno una risensibilità eccezionale, poi la qualità audio, a me mi ha impressionato la qualità audio, sono rimasto a bocca aperta, guarda, ascoltato in cuffia, tutto questo sembra un impianto hi-fi, non il classica radiolina transistor. Sì, questa non è quindi vedere, prende una fonica, controllato bene, però comunque è un'ottima qualità, per ascoltare le femmine, no, di roba, a stare in cuffia, si parlava questa qua. È un'altra piccolina, più metallizzata, data da un cinese, presa direttamente dalla Cina, certo, non attraverso i negozi cinesi, questa qua, cinese, se l'ha portata, no? E in Cina fanno anche cose molto interessanti e magari non arrivano qua, perché qua ci arrivano i pezzi che costano 2 euro e se ne fregano, cioè non portano qualità sulle loro cosettine. Non c'è una parola in inglese, è tutto scritto in cinese, dato che non so neanche il modello, non c'è scritto niente di niente, ma devi sentire come gira questa in cuffia, come dici tu, un impianto hi-fi, anche se ci metti una micro SD per dire, un MP3, a momenti non sembra neanche MP3, te vuoi immaginare come gira sta cosa? Sì, allora immagino. Ok, e Riccardi, riprendi tu che devo fare una telefonata e poi fa girare. Sì, vado avanti io, e comunque Fabio, non so, Bobo ti deve chiamare. Cappa, Ok, certo. Perché voleva un consiglio per il camper, se ne sapevi. Ah, qualche problemino? Collegare la TV all'antenna, praticamente l'antenna, non si riesce a avere la TV in camper. No, ho capito. E che antenna c'è? Quella tipo un disco bianco, quella del camper? Sì, quelle, non so come si chiamano, quelle bianche, quelle praticamente a cupola, che si alzano da sole e come accendi si sintonizzano, girano dalla parte giusta, però non sta prendendo, come a Natalino tipo. No, ho capito. Vabbè, si può dare uno sguardo. Io nei miei ci ho messo in uno una omnidirezionale, tipo un piccolo disco così, che becca un po' qua un po' là, becca più che altro mondetta. Nell'altro invece ci ho messo un'antennina che ho visto anche da Bricoman, si chiama Mita Pinna, costa tipo 26 euro una fesseria. L'unica seccatura te la devi mettere in prossimità di una finestrella, perché se magari vedi che non prende un po', allunghi la mano, la giri, capito? Però quella che avete voi mi sembra una bella antenna, poi faccio pure capito qual è. Strano che non funzioni bene, l'ha preso un colpo da che ramo. Boh, non lo so, dico la verità, l'abbiamo preso, la cellula l'abbiamo presa da poco, cosa sarà? 5 mesi, no, un annetto e mezzo, sì, un anno e mezzo che l'abbiamo presa, boh, non lo so, non l'abbiamo neanche mai usato. Sono rientrato. Capito. Sì, Roberto è rientrato. Sì, diamo uno sguardo, vediamo cos'è. Già ne usciamo sempre alle cose dei camper, mamma mia, anche ieri ci stavo trafficando in uno, lì a pannello solare, ormai se non c'è il pannello solare non va da nessuna parte. No, ma infatti noi abbiamo risolto anche con la storia pannello solare. Cosa sta dicendo Natalie, Riccardi di antenna, che problema c'è? Spiega. E praticamente, come Natalino, non riesco a vedere una cosa del genere, praticamente sintonizzo l'antenna del camper, si gira dove c'è il segnale, però poi non si vede la TV. Ma scusa, fa tutto automatica, un'antenna automatica con GPS eccetera eccetera, o lo fa solo il motore si sposta e poi te la devi regolare manualmente? Boh, non lo so, praticamente al camper clicchi un pulsante e inizia a girare, si alza dal come un libro, da chiuso si apre e poi si gira per trovare il segnale e poi non prende. Vabbè, ma tu devi vedere se il GPS, siccome quelle sono collegate al GPS, deve sapere le tue coordinate, se no non funziona, che sia tutto in ordine un discorso del GPS, o si alza soltanto, va, si muove a destra e a sinistra, fa anche elevazione e azimut, cioè fa tutti e due i movimenti quando si apre. No, si apre solo e gira, come dire, ha trovato il segnale, si ferma e non si muove più. Sì, ma quello che voglio capire, è un'antenna completamente automatica, perché ci sono anche quelle che si aprono motorizzate e poi manualmente deve andare e ti regoli tutti i parametri. Poi ci sono quelle che hanno il GPS, hanno la posizione tua, latitudine e longitudine, tu li imposti il satellite e in automatico lui si cerca il satellite, rischi di 13 gradi e lui va tac direttamente su quel satellite. Ah no, allora di quelle da regolare dici? Non lo so che tipo c'è, perché quelle che dico io le utilizzano le navi e hanno l'inseguimento del satellite, addirittura le puoi utilizzare anche in movimento, certo se stai camminando a 200 all'ora non lo fai. Le navi, cioè, non le hai mai viste quelle cupole che ci sono nelle navi, quelli lì hanno un sistema motorizzato che insegue i satellite, c'hanno anche la correzione del rollio e del beccheggio della nave, un sacco di sistemi allucinanti, però quelle costano una barca di soldi, non credo che tu c'hai un sistema del genere. No, non lo so. Comunque già c'è Fabio, già è preparatissimo, fai vedere a lui, eventualmente poi se capito io posso dargli uno sguardo anche io per quel poco che posso capire. Anche diamo uno sguardo, diamo uno strumento, vediamo se arriva il segnale. Qualche volta hanno problemi totalmente stupidi, tante volte basta resettarle, la resetti, poi vedi che si fa il cavo di la sola e si punta, sta andando, figurati. Sì, ma diciamo con la potenza dei satelliti che c'è adesso, ripeto, anche con un tappo di padella riesce a riceverlo. Autobuild è la stessa cosa per Assa, sono sempre più forti i segnali, soprattutto Autobuild è orientati, i canali italiani sono orientati proprio, il fascio è centrato proprio sull'Italia e per cui non ci sono problemi, con antennine piccoline di 30 cm riesce. Io ho visto una ricezione di Autobuild in un casco integrale di una moto e ha messo l'illuminatore con la staffa e ha ricevuto Autobuild con il casco, al contrario, cioè la parabola è convexa, l'hai visto? Questa era concavo, al contrario, è riuscito a agganciare Autobuild da un casco. Capito Ricca? Allora tu, a posto di dirlo a babbo, lo dici a mamma. Mamma, prendi la pentola e guardiamo la TV. Cappa, già io dico, comunque già si risolve tutto, è tipo la storia dell'antenna quando non ce l'avevo ancora, poi mi sono regolato un po', l'ho comprata e si sistema tutto, non c'è problema, se no tanto anche se non la vediamo non c'è problema perché ci guardiamo i DVD. Ma poi adesso tra parentesi, cosa Fabio Camperi sa come posso essere io, mi immagino il campo. Chi ne ha mai guardato le televisioni nel campo? Non lo sai, tutto il giorno al mare, stanco, a pizzi. Ecco, chi è che ha mai avuto voglia di cosa? Ci credi che io ce l'avevo la TV, ma tanti anni fa, col DVD, con la parabola, di digitale, tutto ce l'aveva. Potevo vedere, non ne ho mai acceso, mai. Ecco, perché eri talmente stanco, anche mie figlie quando erano piccole, e ganavi a gana di attaccare la televisione. Poi adesso ti metti una chiavetta se ti vuoi vedere il film e te lo guardi su chiavetta proprio, oppure ti utilizzi internet o telefonino, ce ne sono di cose ormai, televisione, chi ne guarda più? No, io i Gran Premi, tutti i Gran Premi, vabbè, niente, il mio limite era non uscire col camper nel weekend perché era il weekend di Gran Premi, ho capito, cosa faccio, il padre Gran Premi o il camper, il Gran Premi, cosa faccio? Alla fine sono proiettato e attacco, io invece ho questa parabolina con la ventosa, ho fatto un piantino dentro con del cover, il cavo esce direttamente fuori, quando lo uso in astratto, così non si usa troppo il connettore S. E niente, durante la Gran Prima mettevo la scala un attimino, tac, trovate il segnale e via, ma di sopra questo, poi la TV, la mia X25 se ne stava la TV la notte. No, io guarda, a me il Gran Premio mi piace tantissimo, ma lasciamo perdere, qualche volta è capitato, sì, però già c'era il modo di e poi adesso col cellulare vedi tutto, non ci sono problemi. Tra parentesi, io sono tifosissimo della Ferrari, ma meglio non vederne i Gran Premi negli ultimi anni, perché mi facevano solo arrabbiare, cacchio. L'anno che stava andando bene è Vettel, che sembrava dovesse vincere il mondiale, cacchio, si caga sotto, si smatte da solo. No, guarda, un amaro. Sempre arrabbiati questi ultimi anni, senza contare il fatto che sono partiti anni fa con una galleria del vento sbagliata, un sacco di stronzate, ogni volta che c'era una penalità cercano la Ferrari, e poi un po' di sfiga, e gli ultimi giri stati una gomma, cioè non lo so neanch'io. Ma se si chiudeva la partenza pure, certe volte anche la partenza si smattevano tra di loro i piloti, cacchio, ma cose assurde. La Ferrari l'anno scorso così è partita bene, poi ha avuto dei cali eccetera, poi ha fatto questi lavoretti che non si sa se sono leciti o non leciti, non sappiamo niente, come la Mercedes non sappiamo niente di tutta questa differenza di prestazioni che io rimango a bocca aperta a certi momenti, ci sono cose che noi non sappiamo. Ecco, ma mi metti quello che c'era prima, come si chiama, arriva bene, ti ricordi quello? Il direttore sportivo, come cacchio è uscito quello? Che quello lì era un direttore responsabile, un amministratore delegato della Philip Morris, che non ha mai visto una macchina, neanche macchine normali, figuriamoci in Formula 1, e mi metti a capo del coso della Ferrari corse, una cosa ridicola. Infatti avevo visto un'intervista di Alessandro, come si chiama, Tarquini, che ha detto che è assurdo, dice, mettere una persona del genere in una scuderia dove ci devono essere il meglio del meglio in tutti i settori, dall'ingegnere ai meccanici, e ci mettono la prima domanda e ce l'hanno mandato via. Adesso c'è quest'altro, almeno un ingegnere, non dico che sia chissà che cosa, ma almeno qualcosa di meccanica capisce. Ma quando è andato via Jean Todt, la Ferrari ci ha sceso i vasi a quattro manecce. Ma io penso una cosa, da come ho visto l'andamento di ogni gara, l'ho studiato, poi sono un po' fissato. Ma cavolo, cioè sta facendo quello che hai detto tu e non ha fatto niente. Ma sempre dico io con i mesi in testa facendo i calcoli, capito? E ho visto che... Ciao Eugenio, ben ascoltato, scusa, c'è un attimo Fabio. La fattura, e va. Ci sono certi momenti in cui non puoi usare certe fatture, la macchina non va. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro praticamente devono drogare la gara, perché probabilmente, prendendo conto dei consumi, dei consumi di benzina, non possono far girare la macchina così come deve girare. E allora si fanno dei planning tali per cui le manfatture vanno giocate bene per evitare di rimanere a secco. Cioè, non c'è più competizione, vabbè, non esiste che io sto gareggiando e devo pensare che io sto consumando la benzina in questa maniera qua, non c'è più gara, non si può più fare niente, capito? Sono sempre più convinto di questa cosa, adesso vediamo quest'anno come gira, come non gira, secondo com'è la situazione, se si ripetono le stesse minchiate che ho visto in altri anni, probabilmente smetterò quando di guardare la Formula 1. Del tutto, me la dimentico, tanto anche a casa. Oh, Robè, c'è il re di Porto Torres, facciamolo venire avanti, ciao Eugenio! Riccardino! Buonasera, troppo forte! Ciao Roberto! Ciao Eugenio, ben sentito. C'è anche Fabietto. Fabio, non so se ti ascolta, te lo rilascio. Avanti Fabio, per Eugenio se lo ascolti. Saluto Eugenio, mi sa che non mi senti tu, mi sento basso basso. Ascoltate Eugenio, Fabio. Negativo, ciao Fabio, se mi ascolti. Fabio, ma c'è chi ti conosce, non lo conosco. Ciao comunque. E dove stai rientrando? Eia dai Eugenio, già ci sentiamo, buon lavoro e buon tutto, dai, mi raccomando non far scendere troppa gente per oggi. Ciao, stamattina c'è la riunione. Stamattina? Ho capito, stamattina? Ah così, speriamo che non portino mondetta, dai. Ok dai, ti rilascia Riccardino, purtroppo Fabio dice ti sente basso basso e tu, lui non ti sente Fabio. Sì, vicino a me, però è una situazione un po' critica, c'è un'antenna diciamo di fortuna, dai, per qualche giorno poi anche lui schiccherà forte. Allora Fabio io non l'ho conosciuto, comunque di vecchia data di frequenza, è rientrato adesso da un mesetto che lo conosco, io per la prima volta l'ho sentito circa un mesetto fa, comunque era un vecchio CB che c'era tanti anni fa e poi aveva interrotto. Ah, okay, Fabio Master comunque il suo nome attivo. Ehi, ok Fabio, avanti a te. Grazie, anche se io vi annuncio una QRX lontano che sono appassionato. Se mai è vicino dopo. Saluto Eugenio di nuovo, anche se non mi sente. Saluto anche te, Roberto e Riccardino. Sentiamo dopo. Ok, anche io tra poco devo staccare, sto aspettando una telefonata. Ok, vai Riccardino e facci sognare. Oh, aspetta, c'era Natalino in stand by. Natali, calmato, ti siamo, non si sia fulminato con l'antenna. Vai Riccardino. Ehi, ciao Fabio, spero di riascoltarti altre volte più spesso, perché come hai detto qualche volta entri poco quando ci sono segnali di fuorisessere che non li senti. E comunque facciamo andare avanti Porto Torres con il cambio. Che adesso lo sto perdendo, non ho capito tutto il passaggio di Eugenio, perché Santiago 5, il segnale è suo e quanto è corrente. No, qua sta andando bene, è sempre uguale, e ha detto che diventerò il nuovo re della frequenza. Di più imperatore, re cacchio non esiste, cioè minimo un imperatore, deve avere un impero, cos'è, di frequenza di sassa, e tu ti devi allargare un po' di più. Imperatore della Sardegna, del regno di Sardegna. Ha detto Eugenio, se l'hai ascoltato, quando qualcuno andrà in pensione. Magari sì, ma anche prima Eugenio, dai, non ti preoccupare, io sono sicuro che Riccardino piano piano schiaccherà un sacco di gente. Anche Fabio mi c'ha una bella posizione, a parte che ha attaccato a me, chissà quando attacca lui cosa succede, perché siamo talmente vicini, è la persona più vicina che ho come CB, proprio attaccati, e già arriva forte così, figurati quando ci metterà l'antenna sopra lui. Andrà di splatter da 0 a 40 canali. Di più? Vabbè dai, no, non è detto, dai, tutto dipende da cosa, lui utilizza poche potenze, 4 watt, ma già si fa sentire, sono sicuro che lui si farà ben ascoltare, dai, c'ha una bella posizione. Sì, avanti, che sei Gigi? Aspetta Oge, scusa Oge, cosa hai detto? Aspetta un attimino Antonio, cosa hai detto Oge? Dai Eugenio, fatti sentire anche tu più spesso, che cioè hai venuto tutto, ma anche tu ti riprenderai. Ciao Eugenio, che ci manca tanto la simpatia tua su questo canale, dai, ci sentiamo domani, tanto devi passare da me, dai. Ok, dimmi Antonè, avanti. Ti ripermettere uno strumento che serve per l'intensità di campo, quando tu vuoi vedere se un'antenna sta uscendo, tipo uno smitter, dai, c'è tipo un, non c'è la, come si chiama, il wattmetro, quello lì lo misuro, c'è un'antennina sicuramente. Robè. Ecco per me al telefono. Un indicatore, ho misurato l'area di campo. Molti rosmetri e molti wattmetri hanno un'antennina che tu quando ti avvicini all'antenna senza collegare niente ti dà l'indicazione, ma è una cosa che non serve a nulla in parole povere, è solo una cosa estetica. Dimmi Max. Allora, il dip meter si usava prima che esistessero i moderni analizzatori di antenna e dovrebbe avere anche delle specie di bobine intercambiabili in base alle frequenze. Quando lo strumentino dà un guizzo di fondo scala, hai trovato la frequenza di risonanza, che la vedi su quella scala rotante. Così mi ricordo io. Copiato? Sì, ho copiato, però quasi che ci siano anche utilizzi, altri tipi di utilizzi, e sicuramente anche così ci metterai la banda che ti interessa a te con un tipo un carico fittizio, però utilizzare così senza collegare l'antenna, sinceramente, non lo so, quel sistema che stai dicendo tu. Io ho questi con l'antennina, per ne avevo uno regalato a Capri, tra l'altro, per vedere se l'antenna stava irradiando, ti avvicinavi e ti misurava il campo, il campo elettrico, e li utilizzano quando vengono a fare i controlli, l'ESCOP o cose del genere, misurano la seconda armonica, misurano la prima armonica, cioè la fondamentale, e poi le armoniche, per vedere di quanto è attenuata, quanti dB rispetto alla fondamentale. Si utilizzano per quel caso lì, senza collegare l'analizzatore di spettro, diciamo, puoi utilizzarlo semplicemente con un indicatore ad ago. Sì, quella è un'altra cosa. Il dip meter è roba che si usava ma tipo 40 anni fa, 30 anni fa, quando ancora gli analizzatori di oggi erano costosissimi, non che oggi costino poco, Non ricordo, certi hanno anche il bip. Appena trovi la risonanza dell'antenna che stai analizzando, emette proprio come un guizzo, un bip, e lo vedi sia come audio, sia l'audio, oppure sullo strumentino. Solo che deve avere tutta una dotazione di bobine intercambiabili, perché sennò ci puoi misurare solo una gamma ristretta di frequenze K. Sì, ma quello che voglio capire è che cosa vedi, tu vedi un ago che si muove, mica ti dà la frequenza di risonanza. No, allora dovresti avere, ciao Barracuda, allora dovresti avere una scala tonda, una specie di rotellone tondo graduato, in base alla bobina, aspetta, dovrei mandarti delle immagini per fartelo capire meglio, ma non si può. Tu praticamente la frequenza di risonanza dell'antenna la vedi su questa scala graduata, capito? Che lì trova il punto massimo di risonanza di un'antenna, tipo i 50 ohm ti segna solo, capito? Quando segna lo strumentino, proprio qua a fondo scala di botto, hai trovato la frequenza di risonanza dell'antenna. Però non mi ricordo se esistessero delle scale graduate intercambiabili anche, oppure comunque la dovevi interpretare in base alla bobina che mettevi. Comunque cerca su internet robe, dip meter, dip, deco, sì deco, delta, India, papa, meter, dip meter, vedi le figure, grosso modo poi lo riconoscerai subito. Sì, ma tu stai parlando di un'altra cosa, lui sta parlando di un altro strumentino, tu stai parlando di un analizzatore di antenna, che ci mettono tipo i wattmetri della Beard, che ci metti in base alla frequenza, eccetera, eccetera, stiamo parlando di cose diverse, almeno ho capito che lui ha una scatolina, c'è un indicatore ad ago e basta, così mi confermi Antonio? È quello. Amtron, ho capito di quella serie. No, io pensavo stessi parlando di un altro tipo di apparato che c'ha un monopolone laterale per sintonizzare, diciamo, e c'ha due scale graduate. Ma c'è proprio quello lì tu, e poi c'è una bobinetta fuori che in base alla frequenza si mette la bobinetta. La faceva la GBC, li vendeva questi Amtron, li davano anche da assemblare. Voglio capire una cosa, dove l'hai trovato? No, quello è interessante. No, io stavo parlando di un'altra cosa. No, questo è un analizzatore di antenna di vecchio stampo, adesso sono tutti diversi, sono tutti digitali, qua c'è una scala graduata con la frequenza. No, io parlavo di un'altra cosa, tipo un wattmetro, diciamo, un accordato dell'antenna, dai, che c'ha lo strumentino con l'antenna e c'è una scala graduata da 0 a 10, da 0 a 100, eccetera. Tu come ti avvicini con l'antenna, questo ti misura l'intensità del segnale, non i watt, l'intensità, un misuratore, un piccolo misuratore di campo. Ne avevo uno della ZG, e l'ho dato, forse ZG, non mi ricordo, l'ho dato a Capri, uguale a quello. E lo stesso principio lo utilizzano i vecchi, come si chiama, per misurare le armoniche, per vedere esci quanto arriva la seconda armonica, per dire c'è la scala da 1 a 10 e poi attacchi quello lì e te ne vai su un'altra frequenza e vedi quanto arriva. Lo utilizzavano per misurare le armoniche, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Non capisco come l'hanno messo molte volte dentro questi watt, perché in quel wattmetro che ce l'avevo io ce l'aveva esterno, forse per renderlo un po' diverso. Tu stai parlando di un'altra cosa, quello che ha detto assolutamente Marco, pienamente d'accordo con quello che ha detto lui, giustissimo. No, io pensavo un altro tipo di strumento. Quello lì è un analizzatore di antenna, diciamo, abbastanza antiquato, però è sempre un bel pezzo, tienitelo bello conto. Purché abbia tutte le bobine che si mettono in punta, mia, mo' di antennino, robè. E poi si mette all'ingresso, c'è un ingresso antenna praticamente. E sì, in breve sul sito dei radioamatori ci serve a trovare il punto di risonanza di un circuito LC di un'antenna. Però costavano all'epoca, costavano quanto gli analizzatori rig expert di adesso, Oh signore, io mi devo allontanare, dai, ci sentiamo più tardi adesso, va bene? Ciao a tutti, ciao Antonello, ciao Marco e ciao chi c'è, Riccardino, eventuali amici, io mi allontano un po', ci sentiamo più tardi, va bene? Ciao ciao. Ciao Robert, ciao, sentiamo. Che c'è rimasto qua? Hola, ecco. Doppio room. Buonas tardes, mi hermano. Hola. Buonasera a todos. E allora, che si dice? Non va bene, non va bene, vuole regolato, cambio. Cambio. Il mio va bene? Va bene, va bene. Cambio. Cambio. Chi è che chiama Roberto? Chi è tu sei? Dovrebbe essersi allontanato adesso, Gianni, pure troppo forte, come sempre, più di 8, tra 8 e 8 e mezzo, mi fa sordo, Marco, ia, allora, che epoca, Tino, tu sei, eccoli, contento, quanto bambino, la bubu, mi sta venendo il mal di testa, Pigliati una pastiglia. Buonasera Gianni, adesso costruisciti un riduttore di voce che è troppo alta. Ecco il cervello. Marco non riprende, dai. Dai. Già, con che microfono stai uscendo adesso? Guardati per me, sto chiudendo, ciao a tutti. Ciao. Ciao Marco Riccia. Cava, cava, va bene, dai già. Comunque è abbastanza forte come microfono, va bene. Avanti a chi tocca, a chi aspetta, prendi il microfono, Natali, dai. Poi fai girare tu. No, no, io non ci parlo, mi sa che da oggi non ci parlo più, tanto non vengo preso in considerazione, capito? E quindi mi sa tanto che ci butto tutto nel cassonetto domani mattina. Dimmi a che ora che ci vado io a prendermi la roba, ma fini in nida. Aiuto, prendete in considerazione il Natalino tutti quanti, forza. E piglia per il culo. No, sto facendo per io non posso far finta. Vabbè, avanti. Che c'è? Tino, avanti. Scusate, perché io ero fuori, quindi niente, non ho seguito il discorso. Ciao Natalino. Ciao ti, ciao. Sono rientrato adesso che stavo andando a prendere il telefono, l'ho lasciato fuori al parco, quindi lo stavo mezzo abbandonando, poverino. Chi c'è? Fabio anche, Fabio! Fabio è andato via, Riccardino, sì. Non c'è più nessuno, c'è più nessuno. Giulio! Vabbè, dai, vabbè, dai. Mi prendi tu KP2, tanto non le prende nessuno. Ehi, dai. C'è anche Antonello di Ussi, avanti Antonello. Tutti morti so. Cava, cava, va bene Antonello. Ok. Avanti a chi spetta, a chi spetta. Fabio è andato via, Vabbè. Con un muro sono come vendente. Adesso per la fine del Natalino, nessuno ti prende in considerazione. Ehi, ma io non mi ha dito, non me l'ha fottuta. È ben diverso. Per carità. Io già mi sono fatto una bella dormita per quello. Così non ho sbagliato. Non ho perso tempo qua. Aiui. Proverità. Lei invece si sono dimenticati di chiamarla Natalino. Mosca, poi ho sentito che ha fatto un intervento, non sapevo manco che c'era, figurati. Capo, vabbè dai, io me ne devo lontanare 5 minuti, se non 10, perché mio figlio mi ha chiesto lo zucchero filato, quindi devo andare a esaudire il suo desiderio, vai. Devo piazzare la macchinetta per farlo, quindi mi serve un po' di tempo, dai. Che mi sta da poco fa, dai, va, fammi il zucchero filato, vero Nicola, figlio. Va bene, dai, a dopo. E tu accontentalo. Ciao Tino, ciao. Tino, ciao. Buona serata. Buona serata. Avanti, chiodo da Ruggerito, poi mi dirai chi c'è, perché io sono entrato e ho sentito un sacco di gente e poi sono tutti spariti. No, Roberto è andato via, quello l'ho sentito che è andato via. Riccardino l'ho chiamato già una volta, non mi ha risposto, vediamo un po' se è tornato. Riccardino ci sei? No, sparito. E vabbè, siamo rimasti in due, dai. Se Natalino vuole entrare c'è anche lui. Natalino rientri? Vabbè. Non vuole entrare. Cavagare. E allora, chiodo a Ruggerito, sempre con lo stesso microfono che stava parlando tuo padre, sì. Cavagare. La modulazione è molto diversa, tuo padre sembra una bomba quando, ma è molto più chiara la tua, è molto più chiara perché sei più paccato parlando, lui si butta proprio, sembra adirato, sembra. Qualche giorno ti brucia il baracchino. E vabbè, lui è uno sfogo per il baracchino, capito? Quando parla ti racconta tutte le cose e quindi ci vuole tempo. E poi ci ho pensato, io stavo abbassando e alzando, però lui non lo ammette, dice che di me se l'era accorto subito, che qua che là, ma lui non è vero, io me ne sono accorto che lui era tutto preso, gli chiamavo, attenzione pesce. Ma non volevamo prendere in giro nessuno, volevo fare solo uno scherzo per vedere se ci cascava tutto lì. No, non mi permetterei mai di prendere in giro nessuno, ma comunque ci siamo divertiti un bel, io guarda ero pisciato, cioè vuole lacrimere gli occhi da quanto stavo ridendo. Poi non parlavo così, come mi veniva, dai. Ha tinto Tonino, mi ascolti? E qua il bip si può togliere, ero col Galaxy, quindi si può togliere anche il bip, se ci pensavo l'avrei tolto, però è riuscito un bel bene, dai. Lui c'è cascato come una peracotta, c'è cascato. E vabbè, già non è cosa che fa male, intanto. Già non è uno scherzo brutto, dai. Brutti sono quegli scherzi come l'hanno fatto un amico mio che gli hanno telefonato quando c'ero io e gli hanno detto che il figlio aveva avuto un incidente in moto e che era grave. È partito a razzo, non mi ha guardato manco in faccia insieme a me, è partito a razzo. Dove stai andando? Ho una telefonata, è partito a razzo, ti spiegherò. Siedi in macchina, mi ha fatto sedere, ha dato a pronto soccorso e cosa, chiedendo e facendo, non era vero, non l'ha preso in giro. Poi ha rischiato anche lui perché ha dato a pronto soccorso a manettone, proprio cazzo, non vedeva manco la strada. Ciao Gianni Brecco. Ciao. Lui ha detto che non ha riconosciuto la voce, che se dovesse riconoscere la voce, meglio che non la riconosca, detto. Perché se no la fine la fa fare lui. Avanti Riccardino, buonasera. Buonasera Gianni, ciao Gianni, ciao Claudio Lamuros, poi non so chi c'è, come dire, perché avete fatto un po' di monopolio. Ho capito, va bene. Io ti voglio dire Riccardi, ti voglio puntualizzare che non abbiamo monopolizzato, abbiamo chiamato a tutti, fatto l'appello, compreso te, ti abbiamo chiamato e non ha risposto nessuno. Io stavo parlando con uno, se non entrava chiodo a Ruggerito, io non sapevo con chi parlare, non rispondeva nessuno, Tino se n'è andato, Roberto se n'è andato, tu non rispondevi, Natalino non rispondeva, ci ho chiamato a tutti, ho fatto l'appello. Ehi, ciao Antonello, ben ascoltato, anche qui stai arrivando comunque bene, non c'è problema, avanti Gianni. Ciao Antonello, ben rientrato, dai, tratto, dai. E stavamo parlando appunto di uno scherzo che abbiamo fatto a Capri 2 col figlio. Oh, le risate l'altro giorno, se l'ha bevuta proprio, Chi è che mi sta chiamando? Chi è che mi chiama? Mi chiamate e poi non rispondete. Chi è che mi chiama? Chi è che mi chiama? Ciao Claudio, Gianni. Ehi, a Riccardi, quando stanno parlando gli altri, non rispondere. Se ti stanno chiamando, aspettano e poi quando finisce di parlare rispondi. Se no si capisce né una cosa né l'altra. Ok, vai per l'amico che ti chiama, va. Niente, vedi, adesso non parlo, stanno prendendo solo le scatole. Avanti Antone. Capo, vai tranquillo. Sei super gettonato. Avanti Riccardino. Ehi, non ho sentito a Barracuda il semipassaggio, non capivo se c'era bianco. Vabbè, ok. Comunque non ti ha risposto, hai visto? Lo faceva solo per rompere le scatole. Vabbè, non c'è problema, continuiamo noi. Dai, tu vanno qui, adesso è andato al telefono. Chiodo arrugginito. Scappato. Andato via, chiuso? Sì, ha chiuso. Ah, scappa, che ne so. Stanno chiudendo tutti presto, oggi ci siamo da presto al baracchino, sono. Ne sono stufati tutti quanti. E quindi Riccardo oggi cosa hai fatto di bello? E cosa vuoi che ho fatto? Siamo in piscina quel giorno. Ah, c'era sole, sì. Sì, vabbè, già lo punta il sole. Ogni tanto spariva, era una giornata strana, no? Ma davano pioggia, almeno non ha piovuto, non c'è stato problema. Sì, un po' hanno volato a qualche momento, però c'era un po' di sole. Vabbè, dai, è passata la giornata lo stesso, dai. E invece sono stato il 3 giorni in casa, oggi, uia. Vabbè. Domani dobbiamo uscire, fare la spesa, se ce n'è poche di cose da fare. Ma Tyson era contento? Sì, Tyson l'ho portato giù, l'ho fatto correre, l'ho fatto un po', l'ho fatto camminare. È tornato a casa, si è bevuto quasi tutta la ciotola dell'acqua perché era settato. Poi si è messo nel pavimento, e si è sdraiato. Deve essere aveva caldo. Ma lo soffre molto il caldo? Abbastanza, sì. Quando ha la lingua fuori è perché c'ha sette, io me ne accorgo subito. E cappa. Abbastanza lo soffre Riccardi. Come arrivo a casa subito con la salvietta lo pulisco tutto quanto, le zampe, tutto quanto. Lo rinfresco tutto. E adesso già sta bene quando ritorno a casa tutto bello profumato, con le salviettine al talco. Sono quei cani, come dire, cinesi che sono abituati alle temperature basse. Certo. Vabbè. Ma io infatti cerco sempre di portarlo in orari dove non c'è sole, capito? Quando c'è un po' di ombra lo porto. Se vedo che fuori c'è caldo lo porto in cortile che c'è fresco, perché quando c'è caldo da una parte c'è fresco dall'altra, quindi in regola, capito? Ecco. Avanti. Ciao. Ciao a tutti, ciao Riccardino, ciao Gianni. Ascolta Gianni, sto provando questo apparecchio che ho finito adesso di ripararlo, cioè non ha un microfono amplificato, Provo a vedere come stava andando. Va benissimo Fabio, una bella radio, presente, tranquilla. Sì, Riccardi, questo è quel 430 che ti avevo dato a te, che l'ho messo a posto. La cappa, no, già sta andando bene, mi piace. E adesso sto usando l'alimentatore che mi hai dato tu. È buono. Riccardi, devi aspettare un pochettino, hai avuto fretta a prendere quello, capito? Ti avrei lasciato questo, te l'avrei anche regalato dopo io, non erano problemi. Almeno ero sicuro che andava, c'aveva un piccolo problemino che più o meno ho risolto. Ascolta, vabbè, riprendi Gianni, dai. No, va bene, Fabrizio. Bastava aspettare. Invece Riccardino vuole fare tutto in fretta e lui ha la frenesia di scoprire. Che aveva un po' di problemini che dovevo risolvere, solo che non era così semplice, capito? E quindi ci dovevo lavorare un po', anzi pensavo di non riuscire a metterla a posto, la verità, invece alla fine poi andrà bene. Riccardino, aspetta un attimino, allora facciamo così, adesso gli chiudo i cofani di questa radio e poi magari passo che ti chiedo due cose su un altro canale, però con l'altra parte. Ascolta, Riccardino, le hai viste le foto di questa radio quando la stavo riparando? Io ho visto il primo, il secondo, l'ultimo che mi hanno dato non l'ho visto, non mi stava caricando. E quando era tutta aperta l'hai vista? Sì, quando era aperta sì. È uguale, è come anche la tua, è così, uguale identica. Ascolta, riprendi già che gli chiudo i cofani e poi la riprovo quando è tutta chiusa. Adesso sto utilizzando, per capirci, il microfono dell'Alan 48, Alan 48, non lo so, c'è scritto Alan nel microfono, con un adattatore per usarli nei Kenwood che ho fatto per fare le prove dei microfoni. No, no, va bene, il microfono cos'è? Un microfono normale. Il microfono di Baracchini, c'è scritto Alan, quel microfono di Alan 48, Alan, degli Alan, non lo so, quei Midland, quelli delle radio lì. Esce bene, per essere uno di quei microfoni che di solito fanno la voce nasina. Oh, esce bene, abbastanza bene Fabio. Ma è stata cambiata la capsula o no? No, è il suo originale, quello che poi dovrò usare con quel 48 che l'ho iniziato a modificare e poi l'ho mollato, capito? Perché non ho tempo. Poi mi sono messo questo e mi ha portato via tanto di quel tempo, questo apparecchio che alla fine era una fesseria, lo sapevo. Va bene, comunque adesso.